con Pier Francesco Aiello di PFA Films che lo distribuisce. Parliamo del film Il professore cambia scuola di Olivier Ayash Vidal in uscita in sala giovedì 7 febbraio 2019. Pier Francesco, ben trovato. Ciao Federico, buongiorno, come va? Tutto bene, grazie. Ci racconti brevemente la trama di questo lavoro? Sì, allora, il film si svolge a Parigi, diciamo, tra due licei, che sarebbe la prima parte, il liceo Enrico IV, che sarebbe il liceo forse più prestigioso di Parigi, e poi, per dei motivi che accadono nel film, il professore appunto cambia scuola e va nella Panlie, cioè quindi in una delle scuole, diciamo, più difficili dal punto di vista così come un insegnante potrebbe avere. E insomma, comunque la storia è tutta dentro la scuola. Questo professore, che ha un'estrazione sociale, diciamo, borghese, perché il padre è un famoso filosofo, lui non ha mai avuto contatti, diciamo, con una scuola diversa da quella che era, perché sia lui l'ha frequentata la scuola, diciamo, borghese, e invece si trova a un certo punto dirottato su questa lì. Però il film, poi, questo suo cambiamento porterà chiaramente una grande emotività per lui, per i contatti che potrà avere, e gli cambia alla fine un po' la vita, perché gli apre gli occhi su qualcosa, che quindi su se stesso, ma anche su quello che è la didattica scolastica. Diciamo che è un film sulla scuola francese, anche ne sono stati fatti diversi, anche italiani, insomma europei, diciamo così. Questo è una commedia che non è mai noiosa, è anche divertente, emozionante, c'è cioè dei momenti anche di commozione. È un film diverso da tutti quelli fatti, però va a prendere un suo spazio, perché parla poi della scuola di oggi, cioè la scuola di oggi che poi non è tanto diversa da quello che sono forse le scuole italiane, perché alla fine, diciamo, anche qui penso in Italia, scuole magari più prestigiose, scuole in periferia, hanno le loro differenze. Le loro differenze che sono dovute chiaramente a chi le frequenta, no? Perché in genere chiaramente nelle scuole di periferie ci sono delle persone con dei disagi diversi, con le difficoltà diverse che non una scuola di centro abitualmente ha. Non è detto che sia sempre così, ma insomma in linea di massima. Quindi questo film parla della scuola, parla del rapporto tra alunni e professore e parla anche di quello che è proprio la scuola di oggi. Cioè, quindi noi abbiamo fatto per esempio una proiezione con tantissimi professori e ne è nata, diciamo, una discussione molto ampia, perché è un film che mette a fuoco tanti aspetti della scuola. Pier Francesco, dove hai incontrato questo film? Guarda, questo film, diciamo, io frequento come distributore vari mercati, infatti adesso vado anche a Berlino che inizia domani, e quindi diciamo ormai i mercati sono continui, perché ci sono tanti mercati dove noi distributori, diciamo, andiamo, ma nello stesso tempo anche con internet ormai c'è anche una continuità, nello stesso tempo anche un aggiornamento continuo. Diciamo che questo film l'ho incrociato per la prima volta agli incontri di Parigi, perché l'Unifrance organizza i rendezvous a Parigi ogni anno, invita alcuni distributori europei e fa in mostra, diciamo, quello che è il prodotto nuovo nazionale. Diciamo che per la prima volta l'ho visto lì, poi diciamo che è stato chiuso, diciamo, una fase successiva, quindi tra Parigi, che in genere lo fanno a gennaio, e poi Berlino per il festival. Quando l'ho visto, diciamo, sono rimasto molto colpito perché mi ha anche emozionato. Ho sentito che il film è un film molto lavorato, che è un film sincero, è un film che in alcuni momenti sembrerebbe un documentario, ma non lo è. Ma è un film che proprio ti arriva e quindi diciamo che mi ha colpito, ho pensato che anche l'aspetto scolastico, l'aspetto degli alunni, questo poteva essere una cosa interessante, ho detto no, questo lo devo prendere assolutamente perché è un film che poteva rientrare in quello che è, diciamo, la linea distributiva di quello che sto facendo in questo momento. Di questo regista cos'altro sappiamo? questo regista, intanto ti vorrei dire questo, cioè che il film lo ha lavorato per 2 anni, è la sua opera prima, come film. Lui ha un'esperienza di fotoreporter, quindi insomma ha girato molto il mondo, ha fatto reportage, ha fatto piccoli documentari. Infatti quando è venuto, per esempio, perché abbiamo presentato insieme il film qui alla stampa pochi giorni fa, lui mi ha raccontato che per esempio è venuto in Italia, insomma lui si mette sempre col cellulare a fare dei piccoli reportage, perché è proprio nato dentro di lui. Lui c'è questa cosa che adesso inizia ad aprire anche, mi ha spiegato che aprirà un sito dove pubblicherà tutte queste, cioè crea delle mini storie, quindi ha un'esperienza di fotoreporter in ambienti diversi, è una persona molto meticolosa. Ripeto, questo film ci ha messo 2 anni a farlo, cioè lui è stato quasi 1 anno e mezzo in una scuola di periferia dove poi diciamo il film è stato girato, e è andato a parlare con i professori, ha cercato di arrivare a dei dialoghi nel film, a creare la situazione veramente così com'è. E addirittura la scelta dei ragazzi l'ha fatta in tantissime scuole parigine, e per arrivare al risultato lui aveva scelto già quei 3-4 alunni che li aveva notati, diciamo, incontrati in questa scuola dove lui, diciamo, si era intrattenuto per 1 anno, 1 anno e mezzo, poi però è voluto andare a fare anche dei provini esternamente, però in particolare il protagonista in un certo senso lo aveva quasi già scelto e l'ha preso insomma appunto da lì, quindi ci sono, gli alunni sono tutti, diciamo, presi dalla scuola, perché chiaramente sono 15enni, 16enni, 14enni. Sì, sì. Ed è molto sincero, devo dire che sono bravissime, e lui è stato molto bravo, essendo un'opera prima, perché l'opera prima poi alla fine sappiamo che può avere dei limiti, può avere anche dei pregi, è riuscito a fare un film, diciamo, secondo me molto sincero, molto bello, ed è riuscito ad arrivare all'obiettivo. Lui adesso per esempio sta preparando un altro film, mi ha spiegato, lo fa un po' sulla la storia, è una storia familiare, però basata in casa e in cucina di un grande chef stellato. E io vedo che lui quando lavora, lavora con una meticolosità incredibile. Anche in questi pochi giorni che è stato a Roma, era attento a tutte le cose che era. Il film, calcolo che noi avevamo anche presentato durante il rendezvous a Roma, degli incontri che fa l'Istituto Francese di Cultura. E allora il film era sottotitolato, perché veramente era, ancora lo dovevamo lavorare per il doppiaggio, e lui, essendo un film anche molto dialogato, a un certo punto si è accorto di una parola che era forse sbagliata, no, nel sottotitolaggio. Insomma, è una persona molto attenta, e sicuramente questo non sarà il solo film, ma avrà, secondo me, molto, farà molte cose, perché è una persona preparata, attenta, e non fa niente a caso, insomma. Che uscita sarà? Uscita, chiaramente noi usciamo giovedì, che è il 7, che insomma c'è anche un po' il Festival di Sanremo, insomma che è un po' un deterrente, però chiaramente sarà il problema per tutti. Comunque faremo un'uscita attenta, insomma piccolina, insomma ci avremo una trentina, quarantina di schermi, ma posizionati principalmente nelle capozona, perché chiaramente noi puntiamo che questo film possa avere un minimo di passaparola, cioè puntando, non facendo un'uscita che potrebbe essere così più grande, magari dispersiva, ma per esempio siamo chiaramente in tutte le città, Roma, Milano, Torino, Bologna, anche Firenze, insomma abbiamo tutto, usciamo in tutta Italia. Roma per esempio usciamo all'Eden, al Quattro Fontane, all'Intertevere, anche a Cineland Ostia, a Lux, insomma a Milano, all'Odeon, insomma abbiamo delle sale buone e attente anche al discorso del cinema di qualità, cinema diciamo con la voglia di mostrare un qualcosa di diverso che non magari il cinema americano. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film Il professore cambia scuola di Olivier Aish Vidal, da giovedì 7 febbraio al cinema. Un saluto e un ringraziamento a Pierfrancesco Aiello di PFA Films che lo distribuisce. Pierfrancesco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te Federico, grazie alla radio, grazie, ciao, speriamo bene, ciao.